24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 con il nostro 24 mattino. Buongiorno a tutti, anche al nostro alpino Peter Bescapè in regia. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Parliamo della proposta che ha fatto molto discutere, fa discutere, una proposta di legge firmata da 58 parlamentari bipartisan, che chiede di istituire fondazioni affiancate ai partiti e di dare soldi pubblici a queste fondazioni. Insomma, una proposta bipartisan che dice ci vorrebbero più soldi pubblici ai partiti. Siete d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio. So già che si annuncia un plebiscito per il no, per il momento credo al 96%. Comunque avremo il primo firmatario di questa proposta di legge, l'onorevole Sposetti, che ci spiegherà le sue motivazioni. Alle 8:30 ne parleremo. E da cosa iniziamo? Dai giornali in edicola. In primo piano. Le aperture dei giornali sono soprattutto concentrate su quello che è successo ieri, la diatriba molto forte tra Maroni e i ministri degli interni dell'Unione Europea. Lo strappo di Maroni via dall'Unione Europea, così titola Repubblica, così anche la stampa. Maroni, meglio uscire dall'Unione Europea. Per il Corriere invece in primo piano è Berlusconi, show anti-PM. Ma anche l'Unione Europea boccia Roma sui migranti e Maroni perché stare in Europa? Maroni, usciamo dall'Europa, così anche il Messaggero. Il Manifesto titola con la foto di Maroni e Frattini, Neuro, giocando sull'euro, e il Manifesto titola Neuro. Il Sole 24 Ore invece, Sole 24 Ore che oggi vi ricordo tra l'altro esce con uno speciale dedicato al Salone del Mobile che apre oggi i battenti a Milano, apre sulla vicenda Parmalat, Sprint Granarolo, nuovo statuto, sia l'ingresso in società di interesse nazionale, cioè si parla della cordata italiana che potrebbe rilevare Parmalat, che è molto attenzionata dai francesi con Lactalis. Chi altre aperture poi le vedremo più avanti, c'è chi apre anche sulla vicenda Berlusconi come le piazzate, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, oppure il giornale, l'apertura del giornale La Verità su Berlusconi, processo farsa. Vabbè, da cosa vogliamo partire? Da una segnalazione che troviamo sul Corriere della Sera, pagina 27 e in prima pagina del secolo XIX. È un tema che abbiamo già affrontato parlando di una trasmissione che in onda sulla 7, Il Contratto, che offre i posti di lavoro. Il reality con i precari diventa un caso, è un reality che sta preparando Mediaset con lo spot che gira sulle TV e dice così: sei un insegnante precario della scuola, sei disoccupato, vuoi rimetterti in gioco e fare qualcosa di diverso? Contattaci, puoi vincere 10 anni di stipendio. È la vicenda di questo reality, un nuovo reality su Canale 5, un titolo ancora provvisorio, nel quale dovrebbero partecipare degli insegnanti precari. Lo scopo è cercare di istruire una classe di ignorantoni. Chi vince in stile darwiniano, cioè selezione, il migliore vince, quello che riesce più a istruire meglio i propri allievi, vince 150.000 euro, 10 anni di stipendio, come ricorda crudelmente lo spot. È che il Corriere, che ci fa anche un commento con Aldo Grasso, tra il dramma e la parodia, la vita vera può aspettare. Il Corriere critica il fatto che, insomma, proprio in questi giorni i precari domenica sono andati in piazza e i precari della scuola, del mondo della scuola, scrive il Lorenzo Salvia del Corriere, non l'hanno presa bene. Anche in prima pagina del secolo XIX c'è il commento del caso Avanti Prof Precari, Canale 5 vi offre posto in un reality. Tanto che il commento in prima pagina di Giuliano Galletta si conclude così: temiamo che il casting andrà avanti, i precari affluiranno, lo show must go on. Urge un'altra riforma costituzionale che sancisca l'Italia è una repubblica fondata sul reality. Il lavoro può attendere. E, tra l'altro, tra le polemiche e per le polemiche può anche darsi che lo show di Canale 5, il reality, possa essere rimandato, col direttore di Canale 5 Donelli che dice: trovo comunque singolare che si faccia il processo a un programma non ancora andato in onda. Mentre da Repubblica la seconda segnalazione a pagina 25, attenzione perché i supermarket sono alla riscossa, sono pronte le 6 regole d'oro per convincerci a comprare. Ve le dico, che così state attenti, cari consumatori. Allora, intanto una delle regole dei supermarket per indurvi a comprare è riempire qualsiasi spazio libero, in modo che dovete fare la gincana nei corridoi tra cataste di bottiglie d'acqua minerale, merendine, cioccolatini. La sensazione è quella di essere in una zona in cui ci sono saldi, prezzi di saldo quotidiani. Oppure il disordine fa vendere, perché dove c'è disordine si pensa che la merce costi meno. E poi il classico, mettere i prodotti in offerta vicino alla cassa, dove il consumatore è più vulnerabile. La merce di maggior richiamo poi è posta in mezzo ai corridoi. I prezzi scontati li troverete con il prezzo a caratteri cubitali. Queste sono norme abbastanza ovvie per chi deve vendere, però io ve le dico perché, attenzione, la ricetta anticrisi, scrive Federico Rampini da New York, a pagina 25, i supermarket, le grandi catene di distribuzione si stanno attrezzando con regole per cercare di indurvi a comprare sempre di più. Allora, ci fermiamo alla pubblicità del meteo e poi ripartiamo dalle notizie più importanti, l'immigrazione ma anche la politica. Secondo voi qual è il tema che più fa discutere nella politica? Indovinello? La giustizia. Tra poco. In primo piano. Allora, per l'ennesimo giorno l'immigrazione è in primo piano perché ieri nell'incontro ai ministri degli interni europei è finita davvero male, cioè con grandi tensioni, perché l'Italia è isolata nella sua politica, nel senso che la Germania e la Francia dicono no, non vogliamo, e l'Unione Europea ha bocciato l'Italia, non vogliamo quelli ai quali avete dato i permessi di soggiorno temporanei. E c'è questa frase che il Corriere della Sera la mette in maniera, l'unico giornale, in maniera sfumata, dicendo: l'ha detto o non l'ha detto Maroni? Meglio soli che male accompagnati. Mi chiedo se davvero abbia un senso continuare a far parte dell'Unione Europea. In realtà pare proprio che l'abbia detto, lo testimonia anche La Padania, il giornale della Lega. Questo è il titolo: Maroni, usciamo dall'Europa, tutta l'Unione ci volta le spalle. Quindi Maroni l'ha detta questa frase sul Sole 24 Ore, il racconto di Marco Ludovico a pagina 12. L'Unione Europea boccia l'Italia, ira di Maroni, il ministro dell'Interno. Ha senso restare in Europa? Maroni poi a sera fa sapere il Corriere ha ricevuto la telefonata del premier Berlusconi dicendo la linea è condivisa. In realtà l'opposizione invece fa delle grandi critiche a questa posizione molto molto dura, anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in questi giorni è a Praga in un viaggio di Stato. Secondo Repubblica e anche per il Corriere, Napolitano si è detto irritato col ministro Maroni, cioè sbagliato ipotizzare l'uscita dall'Unione Europea, è un qualcosa di molto molto radicale come posizione. Ci mette il carico da domanda il governatore del Veneto Luca Zaia, oggi intervistato da Repubblica, da Cinzia Sasso, dice: con chi bisogna prendersela? Sono furibondo con l'Europa, se non è in grado di imporre agli stati un progetto di solidarietà è meglio se ce ne andiamo. Così Luca Zaia. Dal fronte invece italiano la situazione è di forte tensione, soprattutto a Lampedusa. Vi invito, se avete tempo, a leggere il straordinario reportage di Goffredo Buccini a pagina 8 del Corriere della Sera. Le fughe, le fiamme a Lampedusa, la rivolta dei migranti, il rogo al centro di accoglienza, tutti loro che gridano: dov'è la Francia, amico? Sei su un'isola. Beh, allora hai almeno una sigaretta? Questi sono le urla di liberté, liberté, viva l'Italie, viva Cassano, eccoli qui i famosi avanzi di galera, i figli di mamma spauriti, tutti in un unico miscuglio di anime morte, bestemmie da caricare nel traghetto subito, già stanotte, scaricare in Sicilia, Mineo o in Calabria, forse a Crotone, per poi organizzare i rimpatri con meno ansia, senza la pressione ormai troppo pesante di Lampedusa. Tunisie no, vive l'Italie, liberté, liberté, queste le urla di tutti i tunisini, il cui destino però è segnato, cioè quello di essere rimpatriati in Tunisia. E ovviamente, visto che l'hanno capito, ci sono anche momenti di forte tensione in questo momento a Lampedusa, per chi ha capito, insomma, che il proprio destino non è quello di sognare la Francia, l'Europa o l'Italia, ma di tornare nel paese da dove sono arrivati. Oh, questo sul fronte immigrazione, mentre voglio gettarmi nell'ampia pagina giudiziaria italiana, che comprende la vicenda del processo Berlusconi, la vicenda del voto in Parlamento, sul processo breve, domani un voto molto atteso, perché da più parti si dice addirittura la maggioranza di governo potrebbe rischiare. Cerchiamo di capire perché nei giornali. Allora, intanto, ieri Berlusconi ha fatto un vero e proprio show, no? All'esterno, comunque anche durante il processo, si è presentato al processo Media Trade. Tra l'altro, alle 8:20 avremo per l'intervista il sottosegretario ai lavori pubblici, è anche un senatore, è anche un sindaco, Mario Mantovani, è anche il coordinatore regionale del PDL in Lombardia. È colui che, insomma, era sul palchetto allestito fuori dal tribunale per animare questi sit-in di sostenitori di Berlusconi. Allora, Berlusconi, toghe contro il paese, aiutai Ruby. C'è stata intanto questa missione, è vero, ho dato soldi a Ruby, ma per evitare che si prostituisse, una frase che certo ha fatto anche un po' scalpore. Qualcuno dice, ma insomma, non è che il destino di una ragazza, di una bella ragazza di quell'età, per forza sia la prostituzione, a meno che uno non venga aiutata economicamente. In ogni caso, c'è stato anche lo show con il pubblico ministero Fabio De Pasquale, come citano tutti i giornali. Eccolo qui il resoconto di Berlusconi, che si è trovato di fronte a Fabio De Pasquale, il PM. Allora lei è quello cattivo, ha fatto una battuta a Berlusconi. La risposta gelida del PM: si contenga con le battute. Al che Berlusconi trasecola, il sorriso si trasforma in una riga delle labbra serrate. Si contenga lei con le accuse, ribatte sorpreso. E il PM De Pasquale: le accuse sono il mio mestiere, le battute no. Insomma, il gelo tra Berlusconi e il PM Fabio De Pasquale, che non si sono neanche stretti la mano. E poi c'è stata anche questa battuta, effettivamente questa è una battuta che fa sorridere, l'hanno ripresa un po' tutti i giornali, di quando Berlusconi si è trovato davanti Giuseppe D'Avanzo, vice direttore di Repubblica. Per chi non lo conoscesse, in foto sono abbastanza rare anche le foto di Giuseppe D'Avanzo. Effettivamente una certa somiglianza, come il Riformista mette, con Stalin c'è. Giuseppe D'Avanzo ha dei baffoni belli, belli in evidenza, no? E al che gli ha fatto una domanda Giuseppe D'Avanzo, e Berlusconi, la domanda era questa più o meno: perché lei risponde ai cronisti e non risponde ai magistrati? Al che Berlusconi si gira e gli fa: senta, signor Stalin, lei di che giornale è? E D'Avanzo: Repubblica. Ecco, appunto, grazie. E Berlusconi ha voltato le spalle e se n'è andato. Il Riformista lo mette a pagina 4, la foto di Stalin, la foto di Giuseppe D'Avanzo, sotto il commento di Cinzia Leone: arcipelago, gulash, ad avveni D'Avanzo, ad avveni baffone. Questo è il titolo. C'è anche la presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, che ha preso carta e penna e ha protestato per quei sit-in. Ha scritto una lettera che annuncia una pesante iniziativa ufficiale proprio nei confronti di quei sit-in di cui parleremo alle 8:20 dell'intervista. Una situazione di manifestazione esterna al Palazzo di Giustizia, per tutti noi fastidiosa, che costituisce obiettivo intralcio alla normale attività giudiziaria. Così definita dal presidente del Tribunale di Milano quello che è successo, vale a dire le persone che si sono fronteggiate, i sostenitori e gli accusatori, se vogliamo, di Berlusconi. Effettivamente è la seconda volta che fuori dal Tribunale di Milano si registra una situazione di tifo quasi da stadio per il processo. Riguardando la questione, visto che si tocca l'altro processo, quello del cosiddetto processo Ruby, fa sicuramente scalpore, l'arresto che c'è stato senza carcere, perché ha già 70 anni, per l'ex prefetto Ferrigno, che è uno che è stato presente, secondo anche l'accusa, a varie cene e sarebbe, secondo Libero, anche uno degli accusatori del caso Bunga Bunga. È stato arrestato quello che Libero definisce il porno prefetto antisilvio. Le accuse: domiciliari per avere storto sesso a donne, anche minorenni, quando era commissario anti-usura. Anche per il Corriere: sesso con minori agli arresti l'ex prefetto. Il PM di Milano Ferrigno prometteva soldi e fondi anti-usura e favori in cambio di incontri. Sì, desume, incontri sessuali. Insomma, questa è la vicenda per quel che riguarda i processi, mentre dal punto di vista della Camera, domani è una giornata decisiva per quel che riguarda il processo breve. Tanto che, secondo Libero, Silvio mette in riga i ribelli. Sulla giustizia niente scherzi, ci saranno appunto delle votazioni, sulla stampa viene messa così: la Camera diventerà un Vietnam, sul processo breve riparte lo scontro, pare che domani ci sarà appunto questa votazione, domani in serata, ci sono però 200 emendamenti ancora da votare e la situazione è di grande tensione. Per quel che riguarda invece però i complotti, perché sotto tutto questo, sotto quello che è la cronaca politica, ci sono ancora vari articoli che parlano della situazione all'interno della maggioranza, una situazione che ieri i giornali davano di grande confusione, di rischio addirittura di implosione del partito da parte appunto di alcuni commentatori politici per le troppe correnti all'interno del partito, eccetera. Ebbene, oggi ci sono due articoli che voglio segnalare, uno di Francesco Verderami sul Corriere e uno in prima pagina del Foglio di Salvatore Merlo, proprio su questo: Tremonti e i sospetti, il complotto è inesistente. Così il titolo del Corriere, l'articolo di Francesco Verderami: non c'è rovescio politico, ribaltone economico in cui non venga chiamato in causa, additato come regista occulto di un complotto, ovviamente contro Berlusconi. Per l'ennesima volta, dunque, aggiungo io, Tremonti viene additato come colui che potrebbe tramare contro il Presidente del Consiglio. Ma Francesco Verderami dice che è un Tremonti che se ne tiene fuori di queste polemiche, d'altronde viene da un vertice a Pechino, sta per andare a un'altra a Washington e dunque fa questa battuta: non c'è tempo per organizzare un complotto. E comunque le definisce così Tremonti: fibrillazioni del nulla. Ecco il motivo, scrive Verderami, per cui annota con algido distacco i conversari dei ministri, suoi colleghi di partito. E a proposito di conversari dei ministri, il Foglio racconta di quella che è la cena segreta, o che doveva rimanere segreta, così non è stata, di 8 ministri che si sono trovati all'Hotel Majestic nei giorni scorsi. Eccola qui, cosa abbiamo ascoltato alla cena dei ministri del PDL, un verbale in libertà. In prima pagina Salvatore Merlo sul Foglio. I ministri sono Scajola, Micciche per la verità non è un ministro, e neanche Scajola. I ministri sono Frattini, Romani, Carfagna, Alfano, Fazio, Prestigiacomo, Marestella Gelmini e Raffaele Fitto. Secondo questa, in questa cena tutti hanno condiviso un punto: Tremonti è un problema. Deve scegliere se sta nel PDL o nella Lega, ha detto Frattini, incontrando l'assenso di tutti gli astanti. Per Stefania Prestigiacomo ne bisogna spiegare meglio il governo al partito, oppure è necessario rendere i due organismi armonici. Insomma, per Alfano Tremonti è una risorsa, per la Prestigiacomo è uno da recuperare. Bisogna porgergli una mano, se non la dovesse afferrare, con lui faremo i conti. Dunque anche 8 ministri, secondo il Foglio, a cena riuniti, hanno convenuto il fatto che per tutti il problema è Giulio Tremonti. Così narrano le cronache culinarie dei ristoranti romani. Il traffico. In primo piano. Sui giornali c'è anche molto del tema del nostro sondaggio, vale a dire la proposta di legge sottoscritta da 58 parlamentari bipartisan che vorrebbero più soldi ai partiti, diciamolo così, più soldi pubblici ai partiti. È una proposta in realtà più complessa. Il primo firmatario è Ugo Sposetti del Partito Democratico, prevede la formazione disciplinare fondazioni politiche culturali collegate ai partiti da finanziare da parte dello Stato con 185 milioni all'anno, che si vanno a sommare ai 160 milioni che già i partiti prendono come finanziamento pubblico. Più soldi pubblici ai partiti, polemica sulla proposta Sposetti, così titola in due pagine l'Unità, a pagina 24-25. C'è anche Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che in due interviste fotocopia al Secolo XIX e al Quotidiano Nazionale dice: più soldi ai partiti, sono dei pazzi, molti del mio partito, è un favore a Beppe Grillo, una proposta del genere mi fa scandalizzare dalla rabbia e dalla vergogna, mi spinge a impegnarmi ancora di più per cambiare il PD e ottenere dal mio partito un segnale di sobrietà. E anche sul Quotidiano Nazionale, questo era dal Secolo, sul Quotidiano: barricate del rottamatore, più soldi ai partiti, sono dei pazzi. Staremo a vedere, che ne pensate? Bando alla demagogia, bando al qualunquismo, all'antipolitica, ne parleremo alle 8:30. Dite la vostra anche voi, cari ascoltatori. Già la state dicendo con un 96% che dice di no. Allora, dal punto di vista economico, il Sole 24 Ore ritorna, visto che ieri l'edizione del lunedì, oggi approfondisce il tema dell'Italia col freno tirato, l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ribadisce urgente la riforma fiscale, soprattutto i rischi sono quelli di una stretta creditizia, racconta Nicoletta Picchio a pagina 5. Ci sono anche delle reazioni al fatto che Emma Marcegaglia in un video messaggio domenica abbia detto che il paese è bloccato. Beh, intanto il segretario del PD Bersani viene intervistato da Roberto Mania su Repubblica, pagina 14, e dice: gli imprenditori ora devono chiedere la rimozione dell'ostacolo Berlusconi, lo definisce così. L'ostacolo, non pretendo che dicano via Berlusconi dentro Bersani, ma che dica quello che tutti gli imprenditori che girano il mondo hanno ben capito. Così si rivolge a Confindustria Bersani. Francamente, poi, alle critiche al PD di non incalzare il governo, in tutta amicizia questa accusa non l'accetto proprio. Mi dica lei quale altra forza d'opposizione in Europa ha presentato il suo programma di riforme esattamente quello che Bruxelles chiede ai governi. Insomma, un Bersani che dice: posizione inconcludente, l'agenda, la detta, l'esecutivo, gli imprenditori ora devono chiedere appunto la rimozione dell'ostacolo Berlusconi. Se fossi al governo, cosa metterei in primo piano nel piano nazionale? Tre priorità, dice Bersani: la riforma fiscale, le liberalizzazioni, la lotta alla precarietà. Oh, devo andare un po' di fretta con le altre notizie di cronaca che trovate sui giornali. Beh, intanto una vicenda inquietante riportata da tutti i giornali, il Messaggero ci dedica due pagine: cimici e telecamere in regione, Polverini spiata, la governatrice della Lazio, che dice forse vogliono bloccare la riforma della sanità, non aveva voluto fare una bonifica come era prassi una volta insediata al capo della regione Lazio, e ora l'ha fatta e hanno trovato due cimici, una videocamera, tutte funzionanti. Una vicenda sicuramente molto molto inquietante per quel che riguarda il governatore del Lazio. Tra l'altro, il Messaggero su questa intervista l'ex governatore del Lazio Storace. Mentre sempre sul Messaggero è ormai accertato che lo troviamo anche in prima pagina di Avvenire, per la verità, Wojtyła, Papa Wojtyła, che sarà presto santo, sarà celebrato il 22 ottobre. Ecco il suo giorno in calendario. Pagina 14 del Messaggero: la celebrazione sarà però solo nelle diocesi di Roma e Polonia. Tra l'altro, il Messaggero intervista uno stretto collaboratore del Papa per anni, Adam Boniecki, che dice: il 22 ottobre 78 iniziava il pontificato pronunciando la celebre frase «Non abbiate paura», ed è comunque questa scelta. Non potevano scegliere un giorno più significativo. Voglio chiudere con lo sport, perché il titolo della Gazzetta: c'è un caso all'interno del Milan, che è il caso Ibrahimovic, tanto che la Gazzetta dello Sport titola Bufera Ibra, C'è anche un giallo, una frase attribuita a Berlusconi, in questo caso come presidente del Milan, che avrebbe detto, secondo l'agenzia Dire, con Ibra forse ho buttato dei soldi. La vicenda è quella dell'espulsione, della seconda espulsione nel giro di poche partite e altre tre giornate di squalifica che si è beccato Ibrahimovic. Berlusconi poi ha smentito questa frase, ma certo però ha detto Ibrahimovic, se si guarda allo specchio, probabilmente si sentirà in colpa. Gli abbiamo già tirato le orecchie. Bufera Ibra. Ora la Gazzetta dice... E può anche essere che a fine anno vada via. Questo è il dato di fatto. Allora ci fermiamo per il giornale radio. Votate il sondaggio sui finanziamenti ai partiti, un maggiore finanziamento ai partiti come chiede una proposta di legge. Mentre alle 8:20 avremo il coordinatore regionale del Popolo della Libertà, Mario Mantovani, colui che ha animato per la seconda volta consecutiva il sit-in di sostegno a Berlusconi fuori dal processo ieri. Il giornale radio 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:22 minuti. Saluto il senatore Mario Mantovani. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Vogliamo ricordare anche sottosegretario ai lavori pubblici, oltre che senatore, e anche sindaco ad Arconate, provincia di Milano. Esattamente. Ed è coordinatore regionale del PDL per la Lombardia. Qualcuno da dice un paio di mesi. Tanti incarichi, vabbè. Comunque ieri era per la seconda volta fuori dal Tribunale di Milano per quello che insomma ha detto il Presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ha detto sono sit-in inaccettabili perché intralciano l'attività giudiziaria. Ma sì, ho letto, effettivamente credo che ieri abbiamo tracciato una pagina di storia nel nostro paese, perché francamente radunare così tanta gente per protestare contro una giustizia ingiusta forse è la prima volta. Addirittura una pagina di storia, dice. Lo abbiamo fatto consapevolmente e lo rifaremo in caso di necessità. Ma perché dice una pagina di storia? Anche sulle cifre, guardi, lei ha detto 2000, i giornali dicono che eravate in 200. Ah, guardi, i giornali francamente saranno i soliti giornali di sinistra, non è mica una novità, per l'amor di Dio. Ma oddio, anche il Corriere. Io ero là, guardi, a un certo punto ho chiamato le televisioni che erano tutte presenti, le ho fatte salire su un piccolo rialzo dove abbiamo fatto alcune affermazioni, comunque rialzate rispetto alla folla, hanno cinepreso. Poi senta, fossero 200, fossero 2000, che cosa cambia? Io credo che la protesta che si mette in atto è quella che conta. Ma la protesta secondo e lei... comunque erano 2000. Erano 2000, vabbè, poi non possiamo tornare indietro a contarle, insomma io le riferisco quello che dicono i giornali, ma tutti... Ma le manderò le foto. Anche il Corriere, va bene. La protesta, qualcuno dice ma è normale che per un processo, che dovrebbe essere una cosa che si svolge nelle aule, ci sia un tifo da stadio da una parte, dall'altra, fuori dal tribunale? Ma guardi, l'anomalia non è la protesta, l'anomalia è questo tipo di giustizia ed è questo tipo di magistratura. Questi pochi magistrati che ne hanno fatto ormai del loro lavoro, della loro professione, ne hanno fatto una battaglia politica contro il Presidente del Consiglio e contro il Presidente del nostro partito. Questa è l'essenza, non è la protesta in sé. Ma se è così ci sarà un giudice che dirà non ci sono elementi per condannare. Se ci fosse il giudice terzo noi saremmo tutti tranquilli. Neanche il giudice terzo. Un giudice che non abbia interessi e commistioni direttamente coi PM, allora saremmo più sereni. Ma siccome la giustizia in Italia procede con modalità storiche ormai, che non soddisfano e soprattutto non danno le giuste risposte alla gente, veda il caso del Presidente Berlusconi, e quindi noi portiamo avanti il nostro principio sacrosanto di riformare questo tipo di giustizia. Senatore, però mi sta dicendo che quei magistrati non sono imparziali, il giudice non è imparziale, insomma sono anche accuse molto gravi, voglio dire. No, io non dico che quei magistrati non sono imparziali, io dico che non si possono cucire ad un uomo votato dagli italiani per la stragrande maggioranza, quindi mi pare con rito democratico, no? Secondo dei principi sacrosanti, non gli si possono cucire 31 processi in pochi anni. Non è mai successo nella storia d'Italia e nella storia d'Europa che si inventassero dei reati pur di colpire sul piano politico una persona che non si riesce a colpire sul piano giudiziario, una persona che non si riesce a colpire sul piano politico. E allora questo sostituirsi al popolo e alla democrazia non fa bene al nostro paese, tantomeno alla magistratura in generale. In ogni caso lei dice sarete ancora, cioè secondo lei è assolutamente normale non fare, che ne so, un comizio politico, un raduno politico, ma radunarsi fuori da un tribunale per con oggettivamente intralciando anche qualche... Abbiamo fatto un raduno di ordine politico, un comizio politico. Sì, però legato a un processo, capisce che è una fase... Legato al fatto che il Presidente del Consiglio, l'uomo più votato dagli italiani, incaricato di governare un paese con tutti i problemi che il paese ha, si deve presentare davanti a dei vincitori di concorso, che per carità noi abbiamo molto rispetto perché è l'ordinamento previsto dalla Costituzione, si deve presentare nonostante il problema dell'immigrazione, il problema dell'economia del paese, i problemi generali che sta vivendo l'Italia, deve trascorrere una mattinata intera dalle 9 del mattino alle 13 per rispondere a questioni, mi creda, che fanno accapponare la pelle. Stiamo parlando di cose di 20-30 anni fa. Sì. Mi dica lei se è giustizia. Senta, invece la vicenda Ruby, il fatto che Berlusconi abbia detto ho dato soldi alla ragazza ma per evitarle di cadere nella prostituzione. Ma perché è così per natura? Guardi, io il Presidente lo conosco bene. Però sono qualcuno, mi scusi, senatore. Sono stato in vacanza con lui. Ho frequentato la sua casa. È generoso, casa, ma lo sappiamo, è generoso. Lei però... sa che quando mi saluta tutte le volte mi dice hai bisogno di qualcosa, ti devo dare qualche cosa, ma lo fa con tutti. Lei non ha, finisce poi in queste questioni. Mi permetta, lei non ne ha bisogno, so che non si possono accumulare i redditi, però insomma senatore, sottosegretario, sindaco, non ne ha bisogno. Guardi, senatore e sottosegretario è la stessa cosa, perché sai, lei sa, è anche sindaco, lei sa che non c'è cumulo. Sì, certo, però... Il sindaco è gratuito, il sottosegretario è già assorbito dal senatore, per cui sul piano del cumulo dei redditi non ce n'è nessuno. Giusto per chiarire, sul piano della democrazia mi vanto, perché essere stato votato da quasi il 70% dei miei concittadini per essere anche sindaco del mio comune, se ne vanta. Lo faccio da oltre 10 anni e io credo che i cittadini abbiano fatto delle scelte, a mio avviso, opportune, visto che hanno rispettato la democrazia. Senta, senatore, per concludere, sulla vicenda del fatto ho aiutato Ruby per evitare, con la generosità insomma che contraddistingue Berlusconi. Ma è nella natura appunto, dell'uomo, guardi, appunto. Ma questo se va lei, secondo me le dice se ha bisogno di qualcosa. Poi io mi chiamo Milan, magari mi dà dei soldi per quello. Senta, mi regalerà una coppa. No, però mi scusi, l'ultima domanda è questa. Qualcuno oggi ha fatto notare, ma insomma è come se una ragazza, una bella ragazza di così giovane, necessariamente se non viene aiutata economicamente finisce nella prostituzione. Non è così, insomma. Cioè, può capitare, no? Può capitare, sì, peraltro, certo. Ha avuto dei problemi in tal senso, insomma, per cui, però guardi, fa parte della generosità dell'uomo, della persona, insomma, chiunque va, secondo me, poi se ne approfittano anche un po', questa generosità, questo purtroppo è nelle cose, nella natura delle cose. Va bene. Tutti ad Arcora a chiedere un aiuto. La ringrazio. Ma guardi, si sta bene, ieri sera ero a Lesmo, nell'altra villa. Ah, l'ha visto ieri sera? È vero che ha detto alla Moratti che si è presentata in ritardo per te, doppio bunga bunga per punizione? Ma guardi, ormai è diventato così un modo di dire, un modo per sorridere. Scherzare. Insomma, perché la storia del bunga bunga, come lei sa, è solo una barzelletta, perciò. Ma io non lo so, però se me lo dice lei. Comunque eravamo in 150 deputati, perciò è stata una bellissima serata, ci siamo divertiti e come sempre il Presidente... Ha scherzato, questo stile, ci ha offerto questa cena in occasione della Pasqua e ci siamo fatti gli auguri. Va bene. La ringrazio, senatore, buona giornata ovviamente. Molto cortese, Grazie a lei, senatore Mario Mantovani, che è anche sottosegretario ai lavori pubblici, voglio ricordare, sindaco di Arconate e da un paio di mesi coordinatore regionale del Popolo della Libertà per la Lombardia. Ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi parliamo della proposta di legge firmata da 58 parlamentari, uno per la verità ha ritirato la firma, bipartisan, che sostanzialmente dice così: ci vogliono più soldi pubblici ai partiti. Siete d'accordo? Il sondaggio su radio24.it oppure 800 24 00 24 tra poco. 24 mattino. Siamo qua, 8:36 minuti, allora discutiamo della proposta di legge che da questa settimana sarà in discussione alla Camera, alla Commissione Affari Costituzionali, una proposta di legge che abbiamo tradotto così, certo, un po' provocatoriamente, più soldi pubblici ai partiti, siete d'accordo? Io sono o blanco o nero. gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La proposta firmata da 58 parlamentari, uno per la verità ha ritirato la firma dell'Italia dei Valori ieri in fretta e furia, ma sono firme bipartisan, è una proposta che disciplina i partiti politici, le fondazioni politico-culturali, ha nel cuore della proposta, quella che fa più discutere, la possibilità di disciplinare fondazioni politiche culturali collegate ai partiti e prevedere per loro un finanziamento pubblico da 185 milioni di euro l'anno, che va a sommarsi ai 160 milioni che già i partiti ottengono come finanziamento pubblico. Onorevole Ugo Sposetti, buongiorno, buongiorno del Partito lei, Democratico. È il primo firmatario di questa proposta che discutiamo, tra l'altro con il professor Salvatore Curreri, che ritrovo con piacere. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Insegna diritto costituzionale all'Università Core di Enna. Onorevole Sposetti, oggi lei avrà già visto i giornali, insomma ci sono polemiche su questa proposta. Il sindaco di Firenze Renzi in due interviste ha detto: è una proposta che mi fa scandalizzare dalla rabbia e dalla vergogna. Più soldi pubblici ai partiti, onorevole. La proposta non è soltanto la nostra arriva per ultima, ci sono ben quattro proposte già consegnate e depositate che saranno collegate fra di loro e spero che inizi la discussione. Il punto qual è? Il punto di partenza è l'articolo 49 della Costituzione, che cito ai radioascoltatori. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Il testo cerca di dare una risposta a una serie di domande. Primo, come faccio a riconoscere un partito? Secondo, quando, come e dove si costituisce un partito? Terzo, come vive un partito? Quarto, di cosa vive un partito? Quinto, ma chi è il partito? Una domanda che le raccoglie tutte: che cosa succede in Europa a proposito dei sì. partiti? Questo è il ragionamento che ha spinto, che ha spinto a fare questa legge. Che ha fatto a questa? Io mi batto, tenga presente che sin dal 1956 è un illustre. Illustre in tutti i sensi, Don Luigi Sturzo presentò la prima proposta in assoluto. Mai il Parlamento aveva iniziato una discussione sull'attuazione dell'articolo. E però, onorevole, veniamo al punto che ha fatto più sobbalzare molti deve, sulla sedia. Per radioascoltatori deve parlare di che cosa c'è la legge, c'è un costituzionalista in collegamento. Sì, sì, sì. Natura giuridica, articolo 2, statuto, denominazione e simbolo. Democrazia interna dei partiti. Oggi non c'è democrazia interna nei partiti. Questo è un punto fondamentale. 4. Requisiti per la partecipazione alle elezioni e per l'accesso ai rimborsi elettorali. Per esempio, via la raccolta delle firme, perché i partiti sì. che oggi sono associazioni non riconosciute, domani sono associazioni iscritte in un registro e quindi si sa chi è il proprietario del simbolo, come vive un partito. Poi, e poi c'è il punto 5, l'articolo 5. L'articolo 5, quello che crea queste fondazioni. Delle fondazioni politico-culturali. E perfetto. Perché allora le dico subito, sì. guardi, le dico subito. Per me, se il Parlamento approvasse solo e soltanto i primi quattro articoli, sarei l'uomo più felice di questo mondo. Credo Punto. Tutti, credo anche gli italiani. Perché... Pronto, ma no, lasci perdere gli italiani, lei no, non come? Deve interpretare il giudizio degli italiani. No. Mi consenta, se approvasse fino all'articolo 4... Allora il giudizio mio, almeno il mio va bene. Ah, va bene, il mio va bene. Perfetto, no, perché l'articolo 4... Perfetto. Allora diciamo che tutti gli italiani, se apriamo tutto 4, perché sappiamo, abbiamo dato una risposta... No, perché diciamolo, il 5 e da lì in poi c'è appunto la crescita, questo, la nascita questo, delle fondazioni culturali... Questo chiaramente nella relazione. Il sistema che a me e ad altri 57... oggi se sono 56 no. Sì, l'onorevole Di Stanislao dell'Italia dei Valori ha ritirato la firma, va bene. Comincia la discussione in commissione, le firme hanno vedremo. Valore secondario. C'è il sistema tedesco. Se poi lei e 50 milioni di italiani preferiscono il sistema francese, e io mi adeguo al sistema francese. L'essenziale è che ci siano regole. Va bene, no, comunque regole. lei ha detto i primi quattro le stanno bene, dal quinto in poi è la nascita delle fondazioni che, leggo testualmente dalla proposta di legge, dovrebbero essere finanziate con un massimo di 185 milioni di euro pubblico. È equiparato al finanziamento che... In Germania. Spesso ascolto anche la sua trasmissione, sì. Consigliate di fare come in Germania, e io provocatoriamente ho detto facciamo va bene, come la Germania. Ma se lei mi dice facciamo come la Spagna, io va benissimo. No, ma va bene, ci sarà qualche obiezione da fare anche sulla questione Germania, però prima vorrei dare la parola al professor Curreri. Professor Curreri, che ne pensa, insomma, lo spirito della legge, la proposta di legge onorevole Sposetti è quella di attuare l'articolo 49 della Costituzione, e lui dice va bene, approviamo i primi quattro articoli, quelli cioè che non prevedono la nascita di fondazioni e i 185 milioni di euro da aggiungere ai 160 che già i partiti prendono, e mi sta bene così. Le sue considerazioni, professore? Guardi, di legge di attuazione sui partiti politici se ne parla dal 1948 e non se ne è fatto niente. Il deputato parlava della Germania, in Germania questa legge esiste dal 1967, in Italia non l'abbiamo mai avuta e probabilmente non l'avevo mai, ma perché i partiti non si vogliono assoggettare a controlli, ovviamente, non vogliono essere soggetti a qualsiasi tipo di ingerenza da parte del controllo, anche per quanto riguarda i finanziamenti, perché come dirò questa legge proprio pecca sul lato dei controlli. Che la politica costi e che deve essere finanziata perché altrimenti chi è più ricco potrebbe avere più possibilità, più chance, questo è un principio indiscusso, che i partiti servono perché senza di essi non c'è democrazia altrettanto. Diciamo che i partiti, per poter avere e pretendere un finanziamento, dovrebbero avere le carte in regola, cioè dovrebbero aver dimostrato di possedere una certa, come dire, onestà intellettuale. Ebbene, su questo versante il progetto di legge che è stato presentato mi pare presenti qualche pecca. Cominciamo per esempio dai rimborsi elettorali. Lì questo progetto di legge colpevolmente omette di correggere alcune assurdità che sono attualmente vigenti. Io mi limito qui soltanto a ricordarle. Sono tre. Uno, il rimborso elettorale è una forma di finanziamento mascherato, perché non vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute, ma vengono praticamente date forfettariamente. Euro, le vogliamo ricordare, un euro per ogni elezione della Camera, Senato, regionali, esatto, e europee, quindi 4 euro a testa per gli iscritti alle liste elettorali. Cinque euro perché per ogni anno di legislatura, ma c'è di più. Ogni anno di legislatura, anche se la legislatura finisce, certo. Stiamo pagando ancora quelli della legislatura finita del governo Prodi, e legislatura attuale. Quest'anno stiamo erogando il quinto anno del rimborso elettorale delle elezioni 2006 e il terzo anno del rimborso elettorale 2008. Come dire, non lascio ma raddoppio. Questo lo dico anche perché vedo che il progetto di legge si diffonde in calcoli di tipo ragionalistico, si dovrebbe tenere conto che addirittura in questo caso i partiti stanno incassando il doppio di quello che era previsto. Infine, il contributo viene erogato non su coloro che vanno a votare, ma sugli iscritti nelle liste elettorali, esatto. E questo mi pare, insomma, questa è un'altra stortura. Qualcuno dice posta. Io non vado a votare perché ho la mia dose di antipolitica, non lo so, non credo in questo voto, in questo strumento democratico, e però i miei 5 euro lo Stato me li conta comunque. Guardi, io me lo dia dopo le informazioni sul traffico, professore, dal quale dopo ripartiamo dall'onorevole Sposetti e il professor Curreri tra poco. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, c'è da dire che, vabbè, ma l'avevo già annunciato, neanche lo guardo più il risultato, il 96% dei nostri ascoltatori dice no, non ci piace l'idea di dare più soldi pubblici ai partiti. Professor Curreri, mi dica il dato che ci voleva dare. No, per far capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando, la Corte dei Conti ha riconosciuto che nelle elezioni del 2008 a fronte di spese diciamo accertate per 110 milioni, noi stiamo erogando contributi per 503 milioni, cioè sono 400 milioni in più rispetto alle a quello spese che è stato effettivamente accertato e di cui i partiti ovviamente non devono rendere conto a nessuno. Allora, onorevole Sposetti, adesso le faccio replicare al professor Curreri, però mi permetta di dire, lei ha fatto il paragone con la Germania, mi viene da dire, mi dica poi se è una dose di antipolitica la mia, mi vengono in mente quattro cose. In Germania se un ministro copia la tesi si dimette, se ci fosse stato un referendum in Germania nel quale hanno buttato fuori, come in Italia, i contributi pubblici, i finanziamenti pubblici ai partiti con il 90% degli italiani, forse non li avremmo ritrovati dalla finestra in Germania. Oppure in Germania c'è una crescita del 3-4%, ancora in Germania hanno messo nella Costituzione che il massimo del deficit pubblico è dell'1% del PIL. Cioè, con una maggiore credibilità di tutto un sistema, magari gli italiani sarebbero anche disposti. Ma lei se, è antipolitica. Ma lei fa un'indagine fra i radioascoltatori, sì, i cittadini italiani sono contro la proposta di legge firmata da Sposetti, va benissimo. No, però comunque la maggioranza di quei cittadini italiani è, da diversi anni esprimono il loro consenso in stragrande maggioranza per un signore che non è la Angela Merkel o Schröder. Certo. Allora dobbiamo essere corretti, e anche il professor Curreri deve essere corretto e informato quando spiega le norme. Non è vero che esiste oggi la possibilità del doppio rimborso elettorale, è stato cancellato dal decreto di prima dell'estate del ministro Tremonti. E oggi non si riscuotono rimborsi elettorali doppi, quindi bisogna dare le informazioni, perché i radioascoltatori hanno bisogno di sapere di che cosa, cioè, che vuol dire quelli doppi? Il doppio, voi avete detto, se c'è l'interruzione della legislatura si prende il doppio, non è vero, forse, è stato cancellato. Forse è stato cancellato dalla prossima. È stato cancellato. Finora è così. Non c'è. Cioè non stiamo pagando quelli della scorsa legislatura, no, l'ultimo anno? No. No. No. È stato pagato nel 2010. Nel 2010. Vabbè, l'ultimo. Quindi, d'ora in poi non c'è più. D'ora in poi non c'è. Dare l'informazione e la norma non c'è più, quindi se uno parla ai cittadini italiani in una trasmissione radiofonica deve non c'è più da qui per il futuro, c'è stata finora e non c'è più. C'è più. Poi assurdità del rimborso elettorale, che significa? Il rimborso elettorale si chiama così in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Grecia e in tutti gli altri paesi europei. In Italia l'avevamo cancellato, però. Era il finanziamento del 74. Dobbiamo metterci d'accordo su che cosa parliamo. Quindi, se in Spagna si chiama rimborso elettorale, anche in Italia possiamo chiamarlo rimborso elettorale. Se in Francia si chiama rimborso elettorale e c'è il rimborso anche per le spese presidenziali, che è una cosa in più che in Italia non c'è, in Francia ci sarà un motivo. Allora, solo da noi cambiamogli il nome e cambiamo la però mi scusi onorevole, perché oggi leggo dall'Unità che il vice segretario del PD Enrico Letta ha preso le distanze, Veltroni presenterà una proposta di legge alternativa, Renzi si è detto indignato, è una vergogna che mi fa indignare, cioè no, veramente mi ha dato anche del matto, ma siccome del è matto. Un signore che non ho mai incontrato e che frequenta Arco, io preferisco interessarmi della democrazia italiana e dei ma c'è anche, lei deve citare pure Bersani. Sì. E Luigi Bersani rimane convinto che il tema dei costi della politica vada affrontato, virgolette, senza demagogia, virgola, inserendo l'Italia nella media delle spese sostenute dagli altri paesi comunitari. Però onorevole, io sottoscrivo. No, certo, ma la critica che hanno fatto molti, anche gli italiani, molti che ci scrivono, che ci dicono ma politici, anche a me, io ma no, ma appunto dicono, ma non vedono il momento di crisi, cioè è proprio il momento in cui tirare fuori questa cosa con la crisi. L'ha spiegato bene il professor Curreri, su questo condivido molto tutta la prima parte, poi quando si parla di soldi abbiamo il Parlamento italiano, la politica italiana ha evitato di affrontare queste cose, è un errore, perché noi abbiamo un signore che oggi presiede il governo, sì, ma se continua così questa antipolitica e questa demagogia ne avremo un altro peggio, e chi ha possibilità di parlare con i giovani e chi ha possibilità di parlare con i cittadini italiani dovrebbe fare un minimo di ragionamento per impedire che dopo il signore che presiede il governo ce ne sia uno peggio. Io lavoro perché ce ne sia uno migliore. Allora io voglio sentire voglio sentire che ne pensa Antonio dalla provincia di Lucca. Buongiorno Antonio, ci ha chiamato. Buongiorno. Sì, a parte questo, che se c'è di nuovo il rimborso elettorale, non è giusto però che se uno spende 1 milione ne debba ricevere 36. Punto primo. Sì. Poi punto secondo, se qui aumentiamo i rimborsi elettorali non è solo per il PD, ma a sto punto anche il PDL, quindi il PDL avrà sempre più soldi del PD e il PD andrà sempre dietro il PDL. Quindi, vabbè, ma lei dice i voti dico, Antonio, scusi, sì, lei mette insieme voti uguale chi ha più soldi, cioè chi ha più soldi prende più voti? Questo lo dice Bersani, perché ha detto che per vincere le elezioni dobbiamo avere più soldi, il doppio di quello. Vabbè, che non è che lo traduca come dire se abbiamo più soldi vinciamo, cioè non è... Vabbè, però io dico a Bersani, lui può prendere 1 miliardo di euro al giorno, sì, non vincerà mai le elezioni perché il PD non ha un programma politico. Non capisco nulla di sociale. Questo di esula però dal discorso, Antonio, è una valutazione politica. Stiamo al punto, anche perché io ho un minuto, professor Curreri, vorrei chiudere su questo. Allora, c'è della critica anche forse di antipolitica, lei vede nelle critiche che sono state fatte all'onorevole Sposetti? Allora, innanzitutto mi corre una precisazione. Sì. Io ho il dato che ho consultato per quanto riguarda il raddoppio del finanziamento, l'ho tratto dal portale normativa che riporta le norme aggiornate. E ancora a me l'articolo 1,6 della legge 157 del 99 prevede che in caso di scioglimento anticipato il contributo, il versamento delle quote annuali è comunque effettuato. Quindi o sbaglio io o il portale. Questo forse nel 2010, però ha detto è stata cancellata, quindi per il futuro non c'è più. Chiederemo a Tremonti. Io sono d'accordo con l'onorevole che non bisogna cavalcare ondate demagogiche. Qui il problema, ripeto, è che i partiti dovrebbero dovrebbero dimostrare di essere aperti anche al controllo del finanziamento che ricevono. C'è un passo, per esempio, della proposta di legge che mi lascia fortemente perplesso, laddove si dice che questo finanziamento dovrebbe essere semplicemente assoggettato al controllo della Presidenza della Camera. Allora, la Presidenza della Camera non è un organo imparziale, è un organo politico. Anzi, dirò di più, c'è un altro passo. Si dice che questo genere di finanziamento non dovrebbe essere assolutamente assoggettato al controllo della giurisdizione ordinaria, che costituirebbe un'ingerenza più dannosa che utile. Il problema è sempre quello: i partiti vogliono i soldi, vogliono essere riconosciuti, ma non vogliono essere controllati. Si tratta di sottoporre a controllo come spendono questi soldi, li nicchiano, cercano di svicolare. Allora il principio è quello. Io sono perfettamente d'accordo sul riconoscimento pubblico delle funzioni del partito, però vuoi i soldi dello Stato, allora ti devi assoggettare a un controllo pubblico. Allora devi presentare i rendiconti alla Corte dei Conti, che sì, è un organo imparziale. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie professor Curreri e grazie a Ugo Sposetti del Partito Democratico. Staremo a vedere che fine farà, che iter farà questa proposta di legge. Intanto ringraziamo Peter Bescapè in regia la radunata degli alpini il 7 maggio dov'è? A Torino, Peter Bescapè l'alpino ci sarà ovviamente. Grazie Alessandro Longoni in redazione con Elisabetta Fusconi, che dire, diamo la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina alle 7:20. Per giorni e notti insieme a te ho camminato senza riposare.